get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ok, allora stasera siamo in radio, come fonica c'è Manuela, poi c'è Rosina e io che sono Lucilla. E siamo alla nostra 236esima trasmissione e dopo la bellissima trasmissione che abbiamo sentito prima con il resoconto della 5 giornate lesbiche che c'è stata a Roma dal 2 al 6 di giugno, adesso veniamo invece a parlare delle nostre vacanze e quindi siamo in contatto con una compagna di Bari e con la vacanza della masseria Sant'Anna. Pina, ci sei? Sì, ciao, ci sono, ciao Lucilla. Ciao, ciao. Allora, intanto quello che volevamo chiederti è la masseria Sant'Anna che si trova in provincia di Bari, dove si trova di preciso? Sì, la masseria si trova tra Monopoli ed Alberobello, che sono due paesi in provincia di Bari. Sicuramente Alberobello, insomma, lo conoscete tutti come paese, per cui siamo a 8 km da Alberobello. Una zona collinare a 12 km dal mare, dalla costa pugliese di Monopoli. Bene, e quando... Posto fantastico. No, io ci sono già stata, quindi sono una fan e quest'anno torno. Però ci vuoi dire le date? Quando è che farete questa vacanza? Allora, noi facciamo questa vacanza per le donne dal 14 al 22 agosto. Sono 8 giorni, dal sabato alla domenica successiva. È una vacanza improntata principalmente allo spirito della vacanza. E inoltre noi, io con altre amiche, compagne, sono anni che organizziamo vacanze per donne, per lesbiche in Puglia, come associazione desiderande. Prima e adesso abbiamo preso questa masseria dove facciamo per tutto l'anno bed and breakfast e in più dedichiamo almeno una settimana all'anno a noi, insomma. Quindi alla vacanza per sole donne. Sì. Quindi come nasce questo progetto, Pina? Questo progetto è nato, diciamo, come... io direi come una costola delle come una è un progetto che nasce, non dico dall'associazione desiderando di cui faccio parte, però diciamo è la diretta conseguenza, nel senso che noi come associazione abbiamo utilizzato questa masseria ed altre per organizzare vacanze per donne lesbiche in Puglia. E poi abbiamo avuto la possibilità di farne anche un progetto di carattere imprenditoriale e quindi abbiamo preso questo posto, siamo 6 donne e lo gestiamo da 5 anni con l'idea, diciamo, fondamentale di proprio appropriarci di uno spazio che potesse essere gestito da noi come meglio ci piaceva, insomma, perché noi come associazione desiderando a un certo punto qualche anno fa abbiamo avuto un grosso problema rispetto agli spazi perché ci sono stati negati per fare questa vacanza, in quanto molte delle strutture grosse sono gestite dalla chiesa, per cui diciamo questo nostro aspetto, diciamo, veniva in contrasto con quello che sapete, che pensa quello che pensa la chiesa rispetto a noi, per cui abbiamo deciso a un certo punto di prendere lo spazio per poterne fare finalmente quello che ne volevamo e quindi non abbiamo poi, diciamo, da questo sono nati progetti di diverso tipo e abbiamo continuato a mantenere questo specifico di donne e lesbiche nella vacanza e in altre cose che facciamo rispetto al territorio. Quindi, sia come, diciamo, struttura, quindi come progetto imprenditoriale, sia anche come associazione desiderante, laddove ci serve uno spazio per poter fare delle iniziative. Ecco, quindi praticamente voi dall'esperienza delle Desiderande, che era nata come un'esperienza di vacanza per donne, voi avete raccolto, no? questa eredità, mettiamola così, e continuate quindi a promuovere uno spazio per la socialità tra donne e lesbiche, che però nel tempo si è trasformato, se abbiamo capito bene, da un semplice spazio laico di incontro e di socialità tra donne e lesbiche, e anche in una impresa imprenditoriale di donne. Sì, esattamente. Sei stata bravissima nel fare il sunto della situazione. Sì. Bene, Pina, come si svolge la vita in masseria in questa settimana? Allora, per quanto riguarda le diverse giornate, tutta la giornata è assolutamente libera, perché comunque noi siamo in un posto di mare, per cui proponiamo itinerari, diciamo, sul mare, percorsi turistici, però nella più assoluta autogestione, per cui diamo delle indicazioni durante la giornata alle donne che vengono da noi, gestiscono come meglio credono, insomma, il loro tempo libero. Invece noi ci concentriamo con le nostre attività durante la sera, che è un momento di socializzazione, e abbiamo previsto momenti di musica, di ballo, di animazione, uno spettacolo teatrale e un gruppo musicale locale che suonerà poi l'ultima sera della nostra vacanza. Wow, questo quindi più o meno, diciamo, a grandi linee. Con è estremamente promettente, Pina. Sì, penso proprio di sì, insomma. Senti, ma ci sono degli spazi comuni anche per mangiare, no? Io almeno ricordo che quando si arrivava c'era la colazione e poi la cena, sì. E il resto della giornata poi era libera, ognuna faceva, no? Questo è rimasto così, c'è la colazione che è uno dei momenti di socializzazione anche la facciamo in genere, dato il clima ovviamente all'aperto, gli spazi che abbiamo fuori masseria sono veramente molto ampi e belli, e poi la sera ci si rincontra tutte insieme a cena. Da noi noi abbiamo come cuoca, ormai per tradizione da anni, Lorena, salutiamo se ci ascoltasse mai, e che ci sarà anche quest'anno con uno staff di altre compagne molto brave in cucina, per cui ogni sera ci sarà una gastronomia differente che accompagnerà, diciamo, anche lei le nostre serate. Sì, poi fra l'altro negli anni che sono stata in masseria, negli anni precedenti, voi andate a prendere il pane in un forno spettacolare, insomma ci sono una serie di cose, sì, vabbè, poi molto invitanti. No, tra l'altro noi poi proprio come gestore della masseria fatta nostra l'idea sì. di valorizzare prodotti locali e prodotti dell'agricoltura biologica. Bene. Oltre che del commercio ecosolidale, questo si trova, le nostre colazioni sono fatte su una base di questi prodotti, così come la cena, per cui sono, ripeto, appunto, oltre al pane, appunto, che fa una signora lì vicino, che ha un forno a legna, ha fatto lei, ha aperto questa impresa femminile anche lei, di tipo tradizionale, dove cuoce il forno a legna e altre cose. E poi per esempio ci sono i nostri vicini che fanno i formaggi, per cui noi utilizziamo i loro formaggi per la nostra cucina. Utilizziamo verdure biologiche che provengono da un progetto di agricoltura sociale di cui io faccio parte, insomma, perché comunque abbiamo questo rapporto diretto con questa realtà, e quindi un po' tutto all'insegna poi di un turismo sostenibile. Un turismo sostenibile ed ecologico. E fra l'altro cioè privilegiando, da quello che stai dicendo, l'imprenditoria femminile, no? Quindi quello è una forma mentis che ormai non lo facciamo neanche perché scegliamo di farlo apposta, nel senso che ci viene più facile scegliere appunto le donne in quanto tali, insomma, e quindi anche perché diciamolo pure, insomma, molta dell'imprenditoria femminile, delle produzioni che fanno le donne sono di ottima qualità. Sì. Quindi non è soltanto una scelta fatta rispetto alle donne, ma le donne sono spesso sinonimo di ottima qualità, sia nei processi di produzione che nel prodotto in quanto tale, per cui è una grande garanzia attualmente. Bene, senti Pina, allora un'altra domanda, chi e come vi si può contattare per venire a fare la vacanza presso di voi? Io lo so perché l'ho già fatto, però per le nostre ascoltatrici. Sì, allora ci sono due possibilità, via col telefono o con la mail. Bene. Col telefono c'è un numero di cellulare, risponde la nostra amica Teresa. Sì. Il numero è il 328 94 322 63. Allora ripetilo. 328 94 322 63. Ok, e questa è risponde Teresa. Teresa dalle 18 alle 22. Okay. Preferibilmente. Ok. E oppure potete contattarci al nostro indirizzo mail che è masseriasantanna@libero.it. Allora masseriasantanna@libero.it. I prezzi, vabbè, quelli magari li potete dire benissimo alle persone che sono interessate. E come si arriva invece? Allora, scusa un attimo. Allora, si può arrivare in Puglia e diciamo dalle nostre parti in aereo, in treno o a Brindisi o a Bari. Poi c'è la possibilità di prendere un treno che o una macchina a noleggio per chi può, che porta Monopoli. Da Monopoli invece noi diciamo facciamo un servizio navetta per portare chi non ha la macchina dalla stazione alla masseria, oppure con la macchina sul nostro sito che è www.masseriasantanna.it ci sono le indicazioni per arrivare da noi. Perfetto, allora ripeti un'altra volta il sito, Pina. www.masseriasantanna.it. Scritto tutto attaccato? Sì, tutto attaccato. Ok, allora noi ti salutiamo e ci vediamo presto, a questo punto dal 14 al 22 alla masseria Sant'Anna in provincia di Bari, tra Monopoli e Alberobello. C'è un gruppo di donne che organizza una vacanza per donne e lesbiche tutta al femminile per uno spazio di socialità. Ti salutiamo Pina e a presto sentirci e vederci. Grazie, grazie anche a voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, ora possiamo ascoltare un brano di Noemi che si intitola Per tutta la vita. Per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente. Finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita. Che senso di vuoto, che brutta ferita. Delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio. L'autunno che passa, ma forse sto meglio. Trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso. Tu non arrabbiarti, ma io non ti perdono. Delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato mai. ferita da me, da te, da quello che non c'è stato mai. Quella che avete sentito era Noemi, ma io mi dissocio, per cui vabbè, va bene lo stesso. Allora, abbiamo sentito Pina poc'anzi che ci parlava della masseria, invece adesso noi continuiamo più o meno sulla stessa falsa riga, perché vi diamo qualche appuntamento ludico, diciamo così, e quindi vi invitiamo tutte quante questo venerdì alle 21 al Buon Pastore a via San Francesco di Sales per, diciamo così, l'inaugurazione di un piccolo e speriamo promettente spazio lesbico che si chiamerà Kesbile Bar. Si tratta di una, diciamo, di una serata appunto ludica, l'abbiamo detto, uno spazio di socialità, mi corregge Lucillina, in cui appunto donne e lesbiche si incontreranno per sbevazzare, per chiacchierare, per discutere, per ballare se sarà possibile, per giocare. E ci sarà questa prima serata il 18, una seconda serata il 25, anche un po' per vedere come va, come funziona, perché molte donne già sono in vacanza, e poi eventualmente se ne riparlerà a settembre. Quindi speriamo che veniate in molte, speriamo che ci diate anche delle idee, delle suggestioni, dei suggerimenti, magari anche che qualcuna di voi decida di venire a dare un contributo così di lavoro, che sapete ce n'abbiamo sempre bisogno. Ma soprattutto vi vogliamo ricordare che invece il 26 ci sarà la nostra settima edizione del Saffo Garden, quindi le lesbiche in giardino, tutte quante a ballare, a ridere, a giocare, questa volta anche a mangiare gli ottimi manicaretti della cuoca Giovanna. E quindi, ecco, come vedete abbiamo riempito più o meno queste due settimane a venire, nella speranza di continuare così sull'onda dell'entusiasmo della 5 giorni che c'è stata la settimana scorsa al Buon Pastore, 2 settimane fa al Buon Pastore. Lucilla mi fa da pappagallo sulla spalla e io sono molto felice di questo. Dunque, volevo ricordare che se Giovanna cucina i manicaretti io faccio l'aiuto cuoca. È una sous chef, del resto ormai ci intendiamo di gastronomia, avendo preparato tutti, ma dico proprio tutti, i panini per la 5 giorni, ed è stato, come dire, il nostro contributo politico a questo straordinario evento che ha visto, come abbiamo sentito, moltissime donne riunite al Buon Pastore. Dunque, adesso vi faremo sentire invece una intervista registrata sul campo delle donne di Agape, scusate, io non so mai come va pronunciato, che Lucilla e Emanuela hanno raccolto dalla viva voce di Anna. E quindi buon ascolto, ci risentiamo subito dopo. Allora, siamo con Anna, una donna del campo donne, della staff del campo donne di Agape, e quindi siamo qui per fare 2 chiacchiere con lei e saperne qualcosa di più. Intanto, che cos'è Agape? Allora, Agape è, intanto ciao a tutte, Agape è un centro ecumenico che praticamente è un luogo dove si incontrano cristiani di varie provenienze, quindi è nato come luogo di incontro fra cristiani, ma in realtà essendo stato fondato da un pastore valdese, Vinay. Questo luogo è nato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale come luogo di pace, come luogo che favorisse incontri, relazioni e scambi multiculturali, aperti alla differenza, aperti al dialogo politico. Ed è stato costruito tra l'altro appunto a mano dalle persone, portando le pietre una per una su questa montagna a 1600 metri, e questo centro ecumenico è nato proprio per reagire a quella che era stata una situazione di distruzione, di emarginazione, di rottura di relazioni fra i popoli. È un campo, è un luogo di incontro, il campo come definizione, perché poi Agape è il luogo dove si svolgono per tutta la durata dell'anno, uno dopo l'altro, i campi. E i campi sono appunto luoghi e momenti di incontro, durano in genere dai 4 giorni a una settimana, ma Agape può anche ospitare estemporaneamente, se ci sono gli spazi, e vari incontri sulla base di segnalazioni, di richieste che vengono fatte da varie associazioni. E all'interno di questi spazi si svolge il campo donne, che è un campo femminista, che ha cominciato a trovare il suo spazio già dal 74, e anno dopo anno, quindi questo campo, questa settimana si è sempre riconfermata, e in un periodo che in genere va dalla seconda metà di luglio ai primi di agosto, oscillando. Ultimamente si è collocato più a cavallo fra i due mesi, quindi si svolge. Quindi allora quando si tiene il campo, così ce lo dici? Si svolge dal 25 luglio al 1 agosto. Bene. Sì. E quindi tu ci hai già risposto anche a un'altra domanda che volevamo fare, e che cos'è il campo donne? Quindi questo campo è tenuto da... È un campo femminista, separatista, nel senso che è uno spazio separato per donne, quindi può essere frequentato solo da donne. E questa dimensione del separatismo è stata mantenuta perché riteniamo, e si è confermato nel corso degli anni ad oggi, che le donne hanno comunque bisogno di uno spazio separato per confrontarsi, per riconoscersi e per elaborare tematiche che le riguardino, proprio perché questo spazio è stato più o meno dilatato nel corso del tempo, ma ultimamente si è ristretto sempre di più, e quindi c'è bisogno proprio di uno spazio separato e protetto dove elaborare tematiche e confronti fra le donne. È femminista perché il campo donne di Agape ha sempre sviluppato i suoi temi parallelamente all'evoluzione del momento storico, delle tematiche che si manifestavano sul terreno sociale e politico, sul piano di realtà. Quindi all'interno del movimento o dei movimenti delle donne. Diciamo parallelamente a quella che era l'evoluzione del movimento delle donne, qualunque nome e forma avesse nel tempo, nel corso del tempo, prevalentemente con un occhio di attenzione maggiore per l'Italia, però sempre di più aperto anche alla realtà internazionale, europea, ma anche oltre. Per cui è diventato un campo multiculturale anche. E ultimamente poi con le tematiche dell'immigrazione si sono integrate anche tante situazioni e tanti temi che riguardano anche la relazione fra donne in questo senso, quindi sulla base della multiculturalità. Senti, allora dici chi è la staff? Chi si occupa? Chi organizza? Allora, la staff è un gruppo di donne che si passa un po' la staffetta, che non è la stessa staff ovviamente di quando è cominciato il campo, però c'è un passaggio di testimone da una staff all'altra, con dei cambiamenti che poi vedono rinnovare ciclicamente un po' tutte le componenti, perché non c'è un irrigidimento rispetto a una sclerotizzazione di presenze rispetto a chi partecipa alla staff. Sì, ed è una presenza che si basa sulle relazioni fra le donne, che sono l'elemento portante proprio anche dell'elaborazione della pratica femminista, quindi riconoscimento di valore, la fiducia, il rapporto fra donne. Sulla base di quello si costruisce la staff. All'interno della staff comunque è sempre presente una componente della della presenza valdese, cioè una persona che faccia da collegamento, perché essendo Agape tra l'altro una realtà diciamo che nasce da una, da un credo, da un'esperienza di carattere religioso, ma assolutamente laica, perché proprio prendendo spunto dalla filosofia femminista riconosce l'importanza della diversità, il valore della differenza e anche di questa pratica di riconoscimento. Agape è profondamente laica e quindi tutte le attività che si svolgono ad Agape riconoscono anche l'operato e la presenza dei laici all'interno, anche dei non credenti, degli agnostici, degli atei, comunque che si incontrano sul piano di un rapporto umano, di un riconoscimento reciproco di collaborazione. E quindi noi abbiamo la presenza di Caterina Dupré, che oltre ad essere la direttora di Agape in questo momento, fa parte della staff del Campo Donne. Questa è un po' una tradizione, che la direttora, appunto se sia una direttora, partecipi alla staff del Campo Donne, così come la vice direttora, che è Valentina, partecipa alla staff del Campo Lesbico, che si svolge a Pasqua. E nel Campo Donne oltretutto ci sono donne, c'è un'altra donna di Roma che è Silvia Cicerchia, ci sono io che sono Anna Zaccagnini, c'è Marina Spini che è di Torino, Daniela Di Carlo che è l'ex direttora di Agape e che è una pastora valdese anche lei, e Grazia Bosi di Brescia e Manuela Fazzi, anche lei di Brescia, che fa parte del Pianeta Viola. E sono appunto donne con cui collaboriamo, però già per esempio stiamo pensando di integrare almeno altre due presenze in questa staff, perché il progetto è che noi, che siamo un po' quelle più vecchie, tenderemo ad uscire e lasciare spazio a persone nuove che entrino. Persone quindi più giovani, con più giovani che conosciamo poi nei campi e con cui entriamo in relazione attraverso l'incontro in questi campi. Sì. Ma quindi il lavoro della staff diciamo corre durante tutto l'anno? Durante tutto l'anno, perché praticamente diciamo si pensa ad un tema e in genere questo tema viene ispirato dalla situazione storica che si sta vivendo in quel momento, quindi c'è sempre un raccordo con la realtà presente, però anche con quella che è la nostra esperienza, la nostra storia e anche il patrimonio di conoscenze che ognuna di noi ha, quindi ci si confronta, si fa un brainstorming, cioè si ascoltano un po' le proposte di tutte, che possono essere ispirate da un fatto che è accaduto, da letture, da incontri, da scambi, da contributi anche che provengono da suggerimenti delle stesse campiste, che poi alla fine del campo ci chiedono o ci propongono di trattare altri temi, e quindi sulla base di tutti questi elementi esce fuori l'idea dell'argomento su cui si svolgerà il campo, e poi vabbè c'è il titolo, il trafiletto, che poi per quanto riguarda quello di questo campo si può trovare sul sito poi di Agape, che dirò dopo. Allora, a noi ci piace dire qual è il titolo di quest'anno, perché ci ha suggestionato, ci ha dato dei suggerimenti. Il titolo di quest'anno è In difesa delle cause perse, e voi dite qualcosa a questo proposito nell'invito, e cioè la forza rivoluzionaria del pensiero delle donne è una causa persa? Quindi vi ponete una prima domanda. Apparentemente sì. E se invece ci chiedessimo quali guadagni abbia già realizzato attraverso quel pensiero? E se invece sperare è sognare in avanti, come rendere visibile oggi la nostra volontà di cambiamento? Quali sono i gesti politici che le donne compiono per amore del mondo? Quindi ecco, voi dite delle cose già in questo invito. Sì. Ed è significativo rispetto anche al ruolo o a quello che si dice delle donne, no? Le donne portatrici di pace, via discorrendo, in difesa delle cause perse, no? Ecco, sì, se la domanda è come vi è venuto in mente questo titolo e comunque sì, questo argomento, se è in qualche misura in continuità con l'argomento trattato l'anno precedente, al precedente campo, e niente, questo è... Sì, diciamo il titolo, l'argomento l'ha proposto Daniela e noi l'abbiamo accolto proprio in piena corrispondenza con la sua proposta, perché lei è partita da un libro di Zizek che significa che si intitola proprio In difesa delle cause perse, e riguarda però la situazione della sinistra, quindi possiamo immaginare quale ne sia il contenuto. Però noi l'abbiamo fatto nostro perché, diciamo, quello che ci è piaciuto rispetto al tema centrale dell'argomento è l'idea che la speranza debba sempre rimanere alla base di qualunque operato politico, perché se noi rinunciassimo a quella probabilmente non avremmo combattuto il nazismo, non avremmo combattuto dei mostri titanici come quelli che i nostri predecessori, le generazioni precedenti si sono trovate ad affrontare. E quindi la speranza è comunque una visione, una proiezione in avanti di un'azione politica che comunque, anche se non c'è, deve vedere lo spazio per camminare, per muoversi. Come dicevi prima, la speranza attiva, no? È una speranza attiva, non è una speranza nella provvidenza, appunto, provvidenzialistica manzoniana, nella serie preghiamo e speriamo che Dio ci premi per il nostro buon operato passivo. Noi pensiamo che la speranza sia un agire in una direzione, dove la direzione viene determinata dal nostro desiderio, e qui riemergono un po' le tematiche femministe. Il nostro desiderio non si spegne ed ha sempre ben presenti i propri obiettivi, a prescindere da quali siano le censure, i tentativi di repressione di chi lo vuole eliminare, di chi vorrebbe cancellarlo. A livello fisico, come si fa con le donne musulmane, ma anche a livello mentale, quindi eliminazione del desiderio significa eliminazione della possibilità di proiettarsi in un futuro, e quindi di sperare di poter percorrere quel tratto che ci separa da quel futuro lì. Comunque, diciamo che proprio perché in relazione al presente, il tema della speranza in un momento di crisi come questo, che riguarda tutto il mondo ma prevalentemente le donne, perché in quanto maggioranza della popolazione dell'umanità sono quelle che comunque sono più oppresse e più represse, in particolare in questo paese, pur essendo un paese occidentale, industrializzato, avanzato, in realtà ci troviamo a vedere le donne in una posizione che le colloca molto indietro nel tempo, in una dimensione quasi medievale, oscurantista. E risalendo un po', come diciamo prima, come i salmoni all'indietro, vediamo che c'è un filo conduttore nei campi di Agape, quindi quello di oggi si ricollega al campo precedente. Io vorrei rifare questo excursus a gambero per far capire in che modo si è sviluppato, anche tenendo presente, per chi ne è consapevole, l'evoluzione, o se volete l'involuzione, della situazione politica. Quindi l'anno scorso, per esempio, il campo era da femministe a resisters, ed era riguardava la fine delle ideologie e anche la fine del femminismo. Questo ovviamente riecheggia, come tutti i campi femministi riecheggiano un po' l'andamento anche della sinistra, no? Perché c'è, certo, come la doppia militanza, un doppio filone, un doppio percorso parallelo che cammina a fianco a quello della sinistra, e quindi chiaramente diciamo la crisi è parallela, anche se per le donne c'è sempre una marcia in più che le riguarda. Quindi ci si domandava se la fine delle ideologie era anche la fine del femminismo, e invece si poneva anche una domanda se il femminismo fosse ancora uno strumento per resistere alle nuove narrazioni dominanti, come quella dei fondamentalismi religiosi o quella dei mercati globali, se vi ricordate, insomma, rispetto alla procreazione, rispetto anche la legge 40 e adesso il discorso dell'aborto, il tentativo della pillola il giorno dopo, insomma, tutto questo stare concentrate sul corpo delle donne come moneta di scambio, beh, lo vediamo oggi con l'escort, ma anche da un punto di vista invece del potere cosiddetto etico della Chiesa e del potere politico, prevalentemente conservatore, ma neanche, perché poi è molto trasversale questo atteggiamento di repressione e di costrizione delle donne, vediamo che si tende a creare un pensiero dominante, da Platone in poi, dove le donne hanno un ruolo appunto marginale che va contenuto, eccetera. E quindi come resistere, ci si domandava lo scorso anno, alle nuove narrazioni dominanti, ai fondamentalismi, che poi si incontrano e si gemellano, certo, e trovano il loro punto di accordo solo sulle donne, su come reprimere le donne. Certo. E sui mercati globali, che anche vedono schiacciate le donne da un punto di vista di economie, di sfruttamento e di repressione, e sulla paura, per esempio l'utilizzazione della paura come strumento di controllo e di dominio politico, che dai tempi di Hobbes, insomma, del Leviatano, non è cambiato nulla, anzi si è riscoperta la paura sempre di più come un modo per... Dall'11 settembre la paura domina, no? E in Italia, insomma, la paura del diverso, la paura dell'immigrato, la paura delle donne, la paura di chiunque rappresenti un qualcosa che fuoriesca dall'ordine minimalistico che si vuole imporre. E questo l'anno scorso, nel 2008 c'erano le mappe femministe, perché c'è stato un momento in cui ci si chiedeva: ma chi siamo, dove siamo? Ci abbiamo rifatto un attimo il punto sull'identità delle donne, che sempre, specialmente dopo il periodo del queer, no? Ci si domandava che cosa caratterizzava la donna in quanto tale, anche il senso del campo donne. Uh-huh. E quindi nelle mappe femministe si è cercato di trovare quali sono le religioni, le cittadinanze, gli orientamenti sessuali, le differenze per età e cultura che costituiscono la complessa identità delle femministe, delle donne. E si è visto come questa identità non sia più sclerotica, scleroticamente definita, come può essere una volta, no, ai tempi del vecchio femminismo, ma è un'identità, come peraltro l'identità di tutti, in questo momento liquida, per dirla alla Bauman, cioè un'identità che va costruita momento per momento. E prende forma anche a seconda dei momenti. Sì, no? Cangiante, quindi è mutevole, ma anche con che abbia un senso, quindi certo, è più dinamica, sicuramente come è dinamica la realtà in cui si sta sviluppando la vita di tutti e di tutte. Non so se volete, no, che continui. No, no, quindi va bene, abbiamo detto che i campi donne sono dagli anni 70 che si tengono, quindi dal 74, quindi è ultra trentennale, sì, l'esperienza. E abbiamo detto qual è il titolo, perché questo titolo è la continuità. E ora una domanda su come si svolge la settimana, cioè che cosa accade durante la settimana dall'arrivo fino al commiato del gruppo di donne che partecipa. Allora, diciamo che sicuramente c'è una parte di elaborazione culturale, di scambio politico, che si svolge sulla base di contenuti, i quali contenuti proposti da noi vengono proposti a delle relatrici che sono donne, che possono essere donne legate agli ambienti dell'Accademia, come è stata Maria Luisa Boccia, o donne femministe storiche, come è stata a suo tempo Luisa Muraro, che sono venute ai nostri campi, o Alessandra Bocchetti, o Lidia Menapace, insomma, o le cattoliche di base, insomma, ci sono state tante teologhe come Letizia Tomassone. Quindi, diciamo, da una parte ci possono essere delle esperte, virgolette, a cui si fa riferimento, no? Oppure donne che comunque hanno un'esperienza su un tema particolare, quindi non necessariamente legate agli ambienti accademici. E, per esempio, in passato abbiamo avuto Suor Francesca di Salvarano, che purtroppo non c'è più, e che avevano proposto nel loro convento degli scambi culturali proprio sul femminismo, sull'omosessualità, sulla relazione fra donne, e in rapporto anche con la teologia. E in questo campo, per esempio, lo posso dire, abbiamo, diciamo, invitato, e sicuramente partecipa, la Fondazione Pangea, che si occupa delle donne del sud del mondo e delle migranti in Italia, e anche in particolare con le donne rom. E quindi il discorso della speranza riguarda donne che appunto si muovono, attraversano continenti, con un'energia che evidentemente le riconosce una forte potenzialità di sperare e di immaginare un mondo da costruire diverso, un cambiamento, che sicuramente hanno qualcosa da dirci, perché probabilmente rispetto a questo sono più competenti e più esperte di noi. E sicuramente anche hanno una maggiore energia trasformativa, essendo sì, provenendo da paesi, diciamo, più giovani della vecchia Europa o del cosiddetto mondo occidentale, sì, no? Che è in via d'estinzione forse, non so se è una speranza, ma comunque quella è. Quindi diciamo Lucilla, che il campo si articola in giornate che sono diciamo un po' a tema, quindi c'è la giornata politica, la giornata teologica, e all'interno di quella, di quel contenitore lì, parlano alcune relatrici. E in questo caso, nella giornata teologica, ci sarà anche appunto Daniela Di Carlo, che parlerà in genere, anche alcune di noi a volte fanno delle relazioni su una parte delle tematiche. Ci saranno proiezioni di film, fra cui questo che ti dicevo della regista Laura Halilovic, che è una donna rom, che il film che ha fatto è Io, la mia famiglia rom e Woody Allen, e appunto quello che ci ha colpito è la capacità di questa donna di immaginare una realtà assolutamente diversa da quella che lei vive, di proiettarsi in quella e di perseguire questo sogno, come si capisce poi dal film, contro tutti i tentativi della famiglia di riportarla nei ranghi, insomma, e possiamo immaginare gli effetti. È comunque molto carino. È bello nel senso che si parla, come le donne sanno fare, di utopia, sì, attraverso le esperienze. Pensare l'impensabile. Esatto, pensare l'impensabile e dire l'indicibile. Esatto. Che è meraviglioso. Che si fa attraverso l'aiuto delle donne, delle altre certo, donne. Certo. Perché comunque anche questa donna qui, pur in una tribù dove è chiaramente patriarcale, con una rigida divisione dei ruoli, un potere maschile assoluto, dove le donne non possono uscire da sole, lei ha trovato nella madre comunque il sostegno per la realizzazione del desiderio, come direbbero, diremmo, come il linguaggio della differenza. E allora, poi ci sono, dicevo, dei laboratori, diciamo, questa è la parte seria, Poi abbiamo diciamo dei momenti tutti i pomeriggi, dei laboratori pratici, che sono laboratori di diversa natura a seconda delle donne che troviamo per collaborare, ma in genere, insomma, abbiamo delle aficionadas che ci aiutano, e quindi abbiamo un laboratorio di danze popolari, un laboratorio di teatro, un laboratorio di reading ad alta voce, quindi letture, abbiamo un laboratorio di scrittura creativa ed un laboratorio di montaggio video. Abbiamo anche quest'anno un'installazione video per fare dei piccoli spot, su cui poi verrà montato un video che poi viene proiettato alla fine, così come l'anno scorso è stato fatto un film con citazioni da tutti i film, con le donne che hanno partecipato come attrici. È stato veramente esilarante, molto carino. E queste sono la parte dei laboratori. Poi a metà settimana c'è un omaggio ai monti circostanti, perché Agape è un posto bellissimo che sta proprio sulle montagne, sulle valli valdesi, sta in montagna, e quindi si fa un'escursione in montagna per chi vuole. Poi c'è sempre una minoranza di sedentari che vanno a mangiare al ristorante, pilotate da Silvia, e invece quelle più sportive si avventurano in questa spedizione, che è sempre molto avventurosa, appunto, molto. Quindi l'ospitalità, passiamo all'ospitalità, sì. Dove si mangia, come si arriva, allora, com'è la, diciamo, la sistemazione alberghiera? Sì. E dunque Agape è una struttura composita, nel senso che c'ha un corpo centrale che è costituito da un grandissimo salone dove avvengono tutte le attività collettive, diciamo le principali, le assemblee generali, eccetera, e questa è la parte, diciamo, strutturata, edificata. C'è quindi questo grande salone dove si mangia, tra l'altro ci sono dei tavoli lunghissimi da 10 posti l'uno, quindi si mangia tutto insieme. E con grandissime tavolate, e tutte le donne, come in tutti i campi, tutti i partecipanti vengono invitate a collaborare col servizio, si chiama il servizio, che è proprio per uno spirito di servizio, siccome nessuno appunto viene servito, tutti serviamo, quindi si partecipa all'apparecchiatura della tavola, alla pulizia del locale e alla sistemazione, preparazione dei tavoli, quando per la colazione, l'orario per la colazione, la cena e il pranzo, ci fanno dei turni di un giorno per una, quindi tutte le donne a rotazione partecipano a questa cosa. E, staccato da questo salone, attaccato al salone c'è il bar, anche per cui ad orario apre e si può bere, avere caffè eccetera. E, c'è uno spazio ping pong dove si gioca, diciamo, nel salone, e il salone poi termina con una parte rialzata che si può chiudere con una tenda che spesso si trasforma in teatro, e quando ci sono spettacoli, oppure, e da cui parlano le relatrici quando ci sono le relazioni. E, poi abbiamo il piano superiore dove ci sono varie stanze e più un salone e altri locali dove si svolgono alcuni laboratori, perché per esempio il laboratorio di teatro ha bisogno di uno spazio più raccolto, quindi si fa nel saloncino al piano superiore. E poi ci sono tutte le stanze, che sono stanze da 3 o da 4, quindi le donne dormono in stanze da 3 o da 4 con letti a castello, e dove si sta insieme. Sono stanze senza chiave, perché Agape è un luogo di condivisione, e, c'è un rapporto, è una situazione, una dimensione molto particolare, diversa da quella a cui siamo abituati. Per le donne che vogliono meno confusione, perché in genere chi dorme sopra il salone sente a volte i rumori, la musica, perché si balla anche, c'è lo stereo, quindi si possono organizzare feste, e quindi anche durante la sera ci sono dei momenti di improvvisazione, di feste, oppure dei momenti di lettura, visione di film. Quindi chi vuole stare più tranquilla va in alcuni alloggi dislocati, che sono delle casette, si chiamano, sono delle costruzioni attaccate al corpo centrale, e che sono sempre più in alto a seconda, appunto, di come sono disposte. Quindi quelle più sensibili ai rumori possono andare lì. E poi c'è la parte importante di Agape, che è il tempio all'aperto, e che si chiama così proprio perché dà il senso a quella che è la dimensione di Agape. È senza pareti, è uno spazio libero, soltanto con dei muri aperti, dove praticamente ci si riunisce con dell'erba su cui si siede, e dove si fanno le plenarie quando c'è il sole, ci si stende nei momenti liberi, si chiacchiera sull'erba, sotto gli alberi. E c'è una scritta, questo campo, che tratta da San Paolo, dagli scritti di San Paolo, che dice: Agape non verrà mai meno. E significa Agape come nutrimento, nel senso proprio di comunione, come nutrimento reciproco, come scambio di energie, come amore fondamentalmente. Quindi questa è la chiesa all'aperto, perché Agape non ha chiese, cioè loro escludono l'idea che ci debbano essere delle mura che separino le persone fra loro, o anche rispetto al rapporto con la divinità. Bene, senti Anna, il tempo stringe, sì, e quindi volevamo chiedere dove si possono raccogliere informazioni, sì, rispetto allora, al campo. Allora, io adesso do dei dati precisi, un attimo. Rispetto al sito? Allora, il sito, che ce l'avevo qui, aspetta un po'. Allora, abbiamo... Ti può interrompere un attimo? No, abbiamo il sito per prendere tutte le informazioni, sia sui costi che su come arrivare al campo. E questo ce lo dice, sì, adesso. Allora, il sito con cui collegarsi, che praticamente ci permette anche di iscriverci direttamente cliccando sugli appositi spazi, si chiama www.agapecentroecumenico.org. Agape si trova a Prali, Borgata Agape di Prali. Il telefono, si può anche, chi non ha il computer o chi vuole contattarli direttamente, può chiamare al numero 0121 80 75 14. Lo ripeto, 0121 80 75 14, risponde la segreteria di Agape, e quindi si può chiedere direttamente a loro. In particolare si possono avere informazioni molto precise sul campo da Caterina, appunto, che è la direttora nonché partecipante della staff, e Valentina, che è la segretaria, che comunque sa tutto. Bene, allora vi invitiamo tutte a prendere informazioni, ad andare a questo campo. E una cosa, c'è un tempo entro il quale fare le iscrizioni, esatto, perché poi finiscono i corsi, esatto, sì. E quindi possiamo invitare le donne che sono, sì, interessate a prendere contatti al più presto. Sì, perché già sono aperte da un po' le iscrizioni, già siamo a quota 50 e poi le iscrizioni si chiudono a quota 70 donne, perché poi dobbiamo considerare la staff, certo, i bambini. Ah, volevo dire che le donne che hanno figli possono venire tranquillamente, perché c'è il babysitteraggio. Bene. E quindi anche questo è previsto. Allora, ciao Anna, ciao ad Agape, ciao a tutte e a presto. Allora, la nostra trasmissione volge finalmente al termine. Si conclude. Si conclude e questa volta siamo andate in diretta. La prossima settimana andremo in replica. Forse, chissà, la dea volendo. Dice Rosina, forse chissà, vabbè, ma è sicuro che andiamo in replica. E niente, quindi vi abbiamo fornito buoni elementi per andare in vacanza, oppure per venire a festeggiare l'estate e il 18 e il 25, oppure il 26 con il Saffo Garden, oppure anche tutte e tre, oppure tutte e tre, come dice Manuela, sarebbe anche meglio. Allora vi salutiamo dalla nostra 236esima trasmissione. Manuela fonica e la voce che è Rosina, e io Lucilla, che vabbè, a me pare che sfut, comunque va buon. Va bene, ciao ciao. Buona serata. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do.